stiamo regolando, ok, lasciami rubetto. Guarda adesso se satura. One, two, three, four, five. Adesso va bene, però sono esperimento già. Devi lasciarlo, se quando tu attacchi io devo sentirti e non devo cambiare niente, perché sennò ti porta via la modulazione, è bella la modulazione. No, so già il punto dove lo devo mettere, capito? E intanto più o meno questi sono qui. Va bene, va bene. In modo che quando ti serve ce l'hai già pronto, capito? Perché attacchi dal momento e ti manca la modulazione e ti dicono no, oh, stai uscendo, non fa, qui, là, capito? Invece non lo faccio regolata, io guarda questa. Io adesso non mi sento manca il pronto, ho cambiato da 440 a 140, ma non cambia niente perché i microfoni sono uguali. Ah, guarda Claudio, tu puoi usare anche un piccolo baracchino, piccolo piccolo, e ne arrivi bene, ma io penso che dipenda soprattutto dall'antenna e la posizione, tu già sei in alto, quindi ha voglia che arrivi bene. Ripeto, per farmi due chiacchiere, per insomma farmi sentire di nuovo. Attivare un pochino anche la 27, non la posso stare sempre in banda amatoriale, e quindi ho messo abbassa bassa, c'è 2 metri, 3 metri di tubo, ma c'è un telescopico da 8 metri, io quindi quest'estate tolgo quel cavo, metto l'altro che è più lungo e la tiro su, e la metto anche tirante, così è definitiva la manovra, capito? In modo che rimane fissa per la 27, perché la gemella della tua ce l'ho, ma è in 10 metri, quella in 10 metri la mantova se la mangia, ma perché se la mangia anche in 27, perché non sette baffi, però quella tenendola bassa, io gli ho fatto tutti i piombi, no? Tutto, tenendola bassa quella in 10 metri non fa e quindi uso quella 10 metri, la mantova me la sono messa in 27, capito? Sì, ma già va bene Claudio, tu sei all'opposto di dove abita Capino, proprio una nord della Tarsuta. Già, più che soddisfacente, fra un po' sentiamo anche Eugenio, dobbiamo fare un lavoretto perché lì si è rotta l'antenna, adesso la dobbiamo mettere a posto, solo che il tempo non ci dà tregua. E sentiamo anche di nuovo Eugenio, infatti mi ha detto appena fatto un po' bocca, scendi con regolo la seditora alla radio, che era sempre spenta perché era impegnatissimo l'estate col lavoro, capito? E quindi adesso le sistemo l'antenna e poi sentiremo anche Eugenio. E cosa c'è troncata? Tu è andata in corte già, quel cazzo di Jägermeister di merda. Chi c'è una Jägermeister, non è una Jägermeister, è una Jägermeister, capito? Il vento che ha fatto è tutto piega, dove si è andato in corto, 5 di stazionarie e ci ha rimesso anche la radio, non so, perché non se ne accorge, ha schiacciato la portante e ha bruciato la radio. Fortunatamente sono intervenuto io, abbiamo rimediato prima, sistemata la radio. E poi adesso stava facendo tempo brutto, adesso ne ascendo con l'antenna, vediamo dove è il problema. E intanto ho già consultato a Fabrizio tecnicamente, ma tu vai a vedere cosa c'ha e poi vediamo se si può riparare, se ripara, altrimenti se ne compra un'altra, ma sicuramente non è la Jägermeister. Ma di comprare la LEM come ce l'ho io, che va benissimo. La LEM c'ha anche la parte di sotto che è in acciaio, dove attacca il piede, dove si arrugginì va la mantova 5, tutto in acciaio. Ce lo so, sì, ce lo so. Ce lo so, sono buone antenne quella che c'è tu, sono buone antenne. No, ma lui, siccome lì ci sono anche, siccome lui è produttore, se lì in quella zona viaggiano un po' i gabbiani, e lui ha messo quella perché l'altra che c'aveva, i gabbiani, pesanti come sono, gli hanno rotto tutti i radiali. Allora io gli ho detto una cosa, noi facciamo una cosa. Se quella si può riparare, si può riparare. Se no aiuto me, perché siamo come fatti lì con Eugenio. Ci conosciamo la vita, era una persona che non ce n'è per nessuno, come Gavino lo stesso era. È nato vicino a me. E quindi gli ho detto, facciamo una cosa, se si può riparare la ripariamo. Se non ci riesco io, tu non ti preoccupare, ciò che me la ripara. Se non si può riparare, ok, tolgo la smart tech che non ha radiato. l'hai quella lì? Allora, io ci vendo una trentina e tutta la Sardegna. Una trentina, ce l'ho io e Carlo, io ne avevo due, uno l'ho attaccato e uno me la sono tenuto io, capito? Erano sette ottavi, ma io ho fatto la comparazione con la Mantova, tutti e due a fianco, alla stessa altezza, la Mantova aveva segnali in 10 metri di S1, S2, la Smartec erano già 7-8, erano 7 ottavi, poi è un'antenna fatta apposta per lavorare a terra, quindi non ha bisogno di grandi altezze, capito? Comunque io sono soddisfatto di questa, mi sta dando molte soddisfazioni, dai. È più o meno come la Mantova questa qui. Sì, io conosco, ma chi ha sperimentato la Smartec a differenza mia è Carlo, che ce la fa in alto, lui era preoccupato, ha detto vai tranquillo che c'è una resistenza con l'antenna, non si rompe, è fatta veramente bene, anche perché lui c'ha il rinforzo di tutto l'accordo a fianco, più alto, quanto è alto Carlo? La parte quadrata, più di un metro. Hai detto bene, è bella robusta quell'antenna, è bella salda, fletteva leggermente col maestrale, ma è normale, capito? Sto ridendo perché sto arrivato, leggendo adesso sul computer, arriva in ospedale con una bomba della prima guerra mondiale nel retto, per operarlo servono gli artificieri, a te l'immagini? Cazzo, non è possibile. A che punto siamo arrivati? Un'amica mia che è infermiera professionale mi ha detto che al pronto soccorso ne è arrivato uno che c'aveva una donna che c'aveva salame cittadino. Quella già l'ho sentita. Ma che schifo, cazzo, ma come si fa? Per carità di Dio. Ma ci vuole coraggio, una bomba della seconda guerra mondiale, roba da matti. Per carità ragazzi, mamma mia, veramente, una cosa impressionante. No, Carlo, quell'antenna è spettacolare, io quando l'ho vista, perché l'avevo preso per venderle un dove io mandavo le radio a riparare. Ma è tutta la senti fare pubblicità in Sardegna, e poi ci mancherebbe altro. Mandamene tre, una me la prendo già io e due, insomma, vedo di fatto un po' di pubblicità. Mi ho dato un po' di foto. In giro di una settimana ne avevo venduto già una vicina. Infatti mi avevo regalato lo Smartec e TV da 55 pollici. Capito? Ho venduto un sacco Gianni, ma c'è un lavoratore di Oristano che ce l'ha in 10 metri, ci sentiamo da Oristano a Sassari in 10 metri, che è una cosa pazzesca, con le stesse antenne, non so quanto arriva bene, in diretta, cioè in HF, a 28 e 4,50 ci sentiamo spesso, da Oristano. Funziona un bel bene con la 7 ottavi, c'è una ricezione favolosa. Che frequenza fa? Sino ai 30? Sì, quella prova da 24 al 500, 24 al 600 a 30 MHz, 30. E adesso c'è anche la Grazioli che è buona, che tutti vantano, come ho detto. La Grazioli non arriva sino a 30 però. Ma 28 diviso all'accordatore, io con la Smartec senza accordatore in 10 metri da 28 a 28 600 io ho 1 di stazionaria senza accordatore. È buono, dai, se puoi anche 10 metri è buono. Ah, non è più. Sì, io mi riprendo e devo chiudere perché sta arrivando mio figlio e ci ordiniamo la pizza e quindi, capito, finisco la serata così e la chiudo qua. Ce la risentiamo sicuramente domani. Ciao Claudio, ciao Tonino se sei ancora in ascolto, ciao Gianni, devo chiudere perché devo andare ad aprire. Ce la risentiamo, dai, lascio acceso così sento il vostro finale. Salutoni. Ciao Carlo, che okay, di te ce ne vorrò perché l'ho portato anche dopo un pranzo e quindi è tranquillo, dai, vai, lo porto lo stesso. Ci sentiamo, Carlo, dai, avanti Claudio. KK, ciao Carlo, un abbraccio, alle prossime, quando poi sei pronto avvisami. Ma quella lì già c'ha, praticamente è un'antenna unica, no? Un stile unico, grande, che è 7,10 metri. Di fianco c'è un'altra antenna, a fianco, gancata, una fianco all'altra, dove quella lì è praticamente dal radiatore e dal sub per le regolazioni delle bande, capito? Anche se la metti per dire in 20 metri a 14.000, a 14.000 esce lo stesso, se la metti in 21, in 20 metri esce lo stesso, chiaramente con la correttore, però è eccezionale, fa anche tutte le bande con l'arte, è eccezionale, eccezionale. Questa fa un bel denaro e costa un bel soldi, la fanno ancora, costa un bel soldi. Io però in promozione l'avevo venduta tutta a 150 euro l'una, infatti me ne hanno preso un mare, capito? Un mare. Va bene, già dai, anche io mi allontano, ma passo un po' a vedermi la TV, se sono già le 8:15. E niente, grazie, due chiacchiere a tutti, un abbraccio a tutti, anche chi è in ascolto, e ci aggiorniamo domani, ok? E allora così vado a portare il cane, dai, ci sentiamo, buona serata, buona continuazione a tutti, dai. Ciao Carlo, ciao a tutti gli altri amici che sono in ascolto, Antonio e via dicendo, ciao a tutti.